Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi panni. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Il buio oltre la siepe di Rupert Mulligan. È la storia di Scout e Jem, due fratelli che a Maycomb, un paesino nell'Alabama degli anni 30, vivono un'infanzia tranquilla, tra scuola e giochi spensierati. Il loro padre, un avvocato di alti principi morali, si batte in tribunale per la difesa di un giovane di colore ingiustamente accusato di violenza sessuale. Una battaglia legale destinata a cambiare le loro vite. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Quando stava per compiere i 13 anni, mio fratello Jem si ruppe malamente il braccio all'altezza del gomito. Dopo che guarì e il suo timore di non poter più giocare a rugby si fu sopito, raramente ripensava al suo infortunio. Il braccio sinistro era un po' più corto dell'altro, ma lui se ne infischiava altamente purché riuscisse a far finte e passaggi. A distanza di un certo numero di anni, talvolta discutevamo gli avvenimenti che avevano provocato quell'incidente. Io sostenevo che tutto era cominciato per colpa di quegli odiosi degli Ewell. Lui, invece, che aveva 4 anni più di me, diceva che la cosa era cominciata all'estate in cui era venuto a trovarci il nostro amico Dill. Lui ci aveva dato per primo l'idea di stanare Boo Radley dalla casa che non lasciava da anni. Quando mio padre Atticus poté indossare la toga, si stabilì a Maycomb, capoluogo della contea omonima. Maycomb gli piaceva, ne conosceva la gente e la gente conosceva lui. Era imparentato per sangue o per matrimonio con quasi tutte le famiglie della cittadina. A quei tempi, verso il 1930, come la ricordo io quando ero bambina, Maycomb era un vecchio paese infiacchito. Allora la gente andava ad agio, bighellonava su e giù per la piazza, si trascinava dentro e fuori dai negozi. La giornata durava 24 ore, ma pareva più lunga. Non c'era fretta perché non c'era nessun posto dove andare, niente da comprare e niente soldi per comprarlo. Noi abitavamo nella via principale del quartiere residenziale. Atticus, Jem e io, più Calpurnia, la cuoca. Calpurnia stava con noi da tempo immemorabile. Nostra madre era morta quando avevo 2 anni. Non sentii mai la sua mancanza. Invece Jem sì. Lui la ricordava benissimo e aveva i capelli morbidi, gli occhi bruni e il viso ovale di lei. Certe volte nel corso di un gioco sospirava, poi prendeva su e se ne andava a giocare per conto suo dietro alla rimessa. Quando faceva così mi guardavo bene dal dargli fastidio. Fu in quell'estate che Dill giunse fra noi. Un mattino, mentre ci accingevamo a giocare nel giardinetto dietro casa, io e Jem sentimmo qualcosa muoversi nell'orto di cavoli della signorina Rachel Haverford. Ci avvicinammo alla rete metallica per vedere se per caso c'era un cucciolo e vi trovammo invece un cosino che stava seduto a guardarci. Seduto era poco più alto dei cavoli. Lo fissammo finché quello non aprì bocca. Salve! E tu chi sei? Mi chiamo Charles Baker Harris e so leggere. Se vi serve di leggere qualcosa ve lo leggo io. Quanti anni hai? 4 e mezzo? Ce ne ho quasi 7. Non sai che sforzo. Scout sa leggere da quando è venuto al mondo e comincia ad andare a scuola quest'altro mese. Sei un po' tappo per avere 7 anni. Sono tappo, ma sono vecchio. La gente mi chiama Dill. Sono di Merida, nel Mississippi. E sono venuta a passare 2 settimane dalla zia Stephanie. La mamma lavora da un fotografo di Merida. Ha mandato la mia fotografia a un concorso di bellezza e ha vinto $5. I soldi li ha dati a me, io ci sono andato 20 volte al cinematografo. La nostra mamma è morta, ma abbiamo un papà. Dov'è tuo padre? Io non ce l'ho il padre. È morto? No. Beh, se non è morto, allora ce lo devi avere, scusami tanto. Da quel giorno l'estate trascorse in normali divertimenti. Dil ci si rivelò come un mago merlino tascabile, la cui testa brulicava di idee originali e fantasie balzane. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, cause I've got the big river blue. Let it rise, let it fall, let the waves make a wall, cause I've got the big river blue. Verso la fine di agosto avevamo portato a termine le migliorie alla nostra casa aerea, fra i due alberi gemelli, e fu allora che Dil ci diede l'idea di stanare Boo Radley. Casa Radley affascinava Dil. Nonostante i nostri avvertimenti, lo attirava come la luna attira la marea, però non lo attirava oltre il lampione dell'angolo, a rispettosa distanza dal cancello dei Radley. Lì Dil si fermava, col braccio attorno al grosso palo, gli occhi fissi e trasognati. Give me back my old boat, I'm gonna sail if it will float, cause I've got the big river blue. I'm going back to Muscle Shoals, times are better there I'm told, and I've got the big river blue. Casa Radley s'affacciava su una curva stretta, più avanti di casa nostra. Guardando a sud si vedeva il fronte del portico, il marciapiede svoltava e proseguiva accanto alla proprietà. La casa, che una volta era stata bianca, s'era da tempo oscurita nel grigio ardesia del cortile che la circondava, e sulle grondaie pendevano alcune delle assicelle di legno che ricoprivano il tetto, marcite dalla pioggia. Nella casa viveva un sinistro fantasma. Io e Gem non l'avevamo mai visto. La gente diceva che usciva nelle notti senza luna e che spiava dalle finestre. Neanche un negro si sarebbe mai sognato di passare davanti a casa Radley di notte. E benché il terreno della scuola confinasse col retro della proprietà dei Radley, una palla da baseball lanciata nel cortile dei Radley era una palla perduta e buonanotte al secchio. Le sventure di quella casa erano cominciate molti anni prima che Gem e io nascessimo. I Radley e i due figli erano bene accolti dovunque in paese. Però, atteggiamento imperdonabile a Maycomb, si tenevano sulle loro. Non andavano in chiesa, il che per Maycomb era il massimo dello svago. La signora Radley la mattina solo in rarissimi casi attraversava la strada per prendere un caffè con le vicine. Non seppi mai quale fosse l'attività del vecchio signor Radley. Ma Gem diceva che comprava cotone, un gentile eufemismo per dire che non faceva niente. La domenica, sebbene a Maycomb una porta chiusa la domenica significasse solo malattia o brutto tempo, le persiane e le porte della casa erano sempre chiuse. Secondo le dicerie del vicinato, Arthur Radley, detto Boo Radley, il ragazzo più giovane dei Radley, da adolescente aveva fatto lega con alcuni componenti della famiglia Cunningham, un'immensa e caotica tribù di Old Sarum, nella parte settentrionale della contea, e tutti insieme avevano formato quella che in tutta la storia di Maycomb era stata quanto potesse esservi di più somigliante a una banda. Dopo varie vicissitudini poco legali, per 15 anni nessuno aveva più visto Arthur Boo Radley. Poi venne il giorno in cui Boo Radley fu visto da parecchie persone. Mio padre Atticus non parlava mai molto dei Radley, ma raccontava che una volta Boo era seduto nel soggiorno, intento a ritagliare certi articoli della Gazzetta di Maycomb, quando nella stanza era entrato il padre. Quando il signor Radley gli era passato vicino, Boo gli aveva ficcato le forbici in una gamba, le aveva tirate fuori, se le era forbite sui calzoni e aveva ripreso la sua occupazione. La signora Radley era corsa in strada strillando, ma lo sceriffo, quando era arrivato, aveva trovato Boo sempre seduto nel soggiorno che ritagliava la Gazzetta. contava allora 33 anni. Boo non era mica pazzo, era solo un po' nervoso qualche volta. Venne però il giorno in cui mio padre Atticus ci informò che il signor Radley stava morendo. Ci mise un bel po' di tempo il signor Radley, ma alla fine lo vedemmo passare per l'ultima volta davanti a casa nostra. I vicini pensavano che, una volta sotterrato il signor Radley, Boo sarebbe venuto fuori, ma le cose andarono diversamente. Quanto più gli parlavamo dei Radley, tanto più Dil ne voleva sapere. Boo esce soltanto di notte, quando noi dormiamo e fa buio nero. Se ti capita di svegliarti, lo puoi sentire. Una volta l'ho sentito che grattava la nostra porta, ma era già scappato via quando Atticus andò a vedere. Chissà che cosa fa. Chissà come è fatto. Beh, a giudicare dalle orme è alto circa 1,90 m. Mangia gli scoiattoli crudi e tutti i gatti che riesce a prendere. Ha una cicatrice rossa lungo tutta la faccia, ha i denti gialli e tutti bacati, e ha gli occhi di fuori come i rospi, e non ha la voce umana. Tu dici così per mettermi paura. Scommetto una fionda contro due palline di vetro che non hai il coraggio di passare il cancello di Boo Radley. Di la verità, hai paura? Ma che paura? Se passo accanto alla casa di Boo tutti i giorni da quando sono nato. Sì, ma di corsa. Tu sta zitto. Scendemmo per la strada e ci fermammo davanti al cancello dei Radley. Dil disse a mio fratello Jem di andare e lui andò. Arrivò fino all'angolo, poi tornò sui suoi passi per studiare quel terreno facile. Era accigliato e si grattava la testa. Allora io gli feci una smorfia di disprezzo. Jem spalancò di botto il cancello, corse verso il fianco della casa, lo colpì col palmo aperto e tornò indietro di corsa passandoci davanti. Corri più che puoi, Scout! Andiamo di lì! Dil e io gli corremmo alle calcagna. Sani e salvi sotto il nostro portico ci voltammo a guardare ansimanti. Chi è che ha paura? Vado a raccontare agli amici del paese tuo, signor Dil Harris. La vecchia casa era tale e quale, cadente e languente. Ma mentre guardavamo al di là della strada, ci parve di veder muoversi un'imposta interna. Un guizzo, un movimento leggero, quasi impercettibile, e la casa tornò immota. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Dil ci lasciò a settembre per tornare a Meridian. Un pomeriggio, mentre passavo a tutta velocità, qualcosa attirò la mia attenzione. Trassi un respiro profondo, mi guardai in giro a lungo e tornai sui miei passi. Ai confini della proprietà dei Radley sergevano due querce sempreverdi. Le radici si spingevano fino alla stradina secondaria, rendendola gibbosa. Dal cavo di un nodo del tronco di uno degli alberi, proprio all'altezza dei miei occhi, sporgeva un pezzo di stagnola che mi ammiccava al sole. Mi fermai lì, sulla punta dei piedi, allungai la mano verso il buco e ne tirai fuori due pezzi di gomma americana privi dell'involucro esterno. Corsi a casa ed esaminai il mio bottino. La gomma pareva intatta, la annusai e aveva l'odore giusto. La leccai e attesi un po'. Siccome non ero morta, me la ficcai in bocca tutta quanta. Era chewing gum alla doppia menta. Quando Jem tornò a casa, volle sapere dove avessi pescato quel malloppo così grosso. Gli risposi che l'avevo trovato. Per qualche strana ragione, il mio primo anno di scuola aveva portato un grande cambiamento nei nostri rapporti. La tirannia della nostra cuoca Calpurnia s'era ridotta dei sommessi rimbrotti. Da parte mia facevo notevoli sforzi qualche volta per non provocarla. L'estate era alle porte. Gem e io l'attendevamo con impazienza. L'estate era la nostra stagione preferita. Significava dormire nelle brandine sotto il portico di dietro chiuso dalle spalliere. Significava che tutto era buono da mangiare. Voleva dire migliaia di colori in un panorama riarso. Ma soprattutto, l'estate voleva dire Dill. Io e Gem, tornando a casa finita la scuola, passammo davanti alle querce sempre verdi di casa Redley. Alzai il dito per mostrargli per la centesima volta il buco dove avevo trovato la gomma americana e mi avvidi che stavo additando un altro pezzo di stagnola. Gem si guardò intorno, allungò il braccio e con aria disinvolta si mise in tasca un sottile e lucente involtino. Corremmo a casa e nel portico potemmo contemplare una scatoletta tutta foderata con lucenti pezzetti di involucri di chewing gum. Era di quelle scatolette in cui si tengono gli anelli, di velluto porpora e con una minuscola serratura. Dentro c'erano due monetine da un centesimo, pulite e lucidate. Gem si fermò e guardò a lungo verso casa Redley prima di andare in camera sua. Da quella volta considerammo di nostra proprietà tutto ciò che trovammo nel cavo dell'albero. Due giorni dopo arrivò Dill, aureolato di gloria. Aveva viaggiato in treno da solo da Meridian fino a Maycomb e aveva pranzato nel vagone ristorante. Con il passare dell'estate, Dill stava diventando per me un po' una tribolazione, sempre attaccato com'era a Gem. Al principio dell'estate mi aveva chiesto di sposarlo, poi subito dopo non ci aveva pensato più. Mi aveva monopolizzata, mi aveva marcata come proprietà sua e adesso invece mi trascurava. Due volte lo presi a botte, ma non servì a nulla. Anzi, continuò ad attaccarsi ancor di più a Gem. Passavano insieme giornate intere sulla piattaforma sull'albero a complottare, chiamandomi solo quando avevano bisogno di un terzo per giocare. Ehi, Gem! Gem! Una sera trovai Gem e Dill nel giardinetto dietro la casa, immersi in una fitta conversazione. Dill e Gem volevano semplicemente sbirciare dalla finestra con la persiana scardinata per vedere se riuscivano a dare un'occhiata a Boo Radley. Io dico che è meglio non allontanarci a quest'ora. E chi ti obbliga a venire anche tu, angioletto? Che volete fare? Vogliamo arrivare vicino alla casa maledetta per riuscire a vedere dalla finestra Boo Radley. Vieni, Dill. Gem, ti prego, ho paura. Vai a casa se hai paura. Più cresci, più ti comporti come una femmina. Vieni, Dill. Aspettatemi, vengo anch'io. Faremo il giro e passeremo sotto il filo spinato dietro la casa dei Redley. Non credo che potranno vederci. Andiamo. Arrivammo al cancello che divideva l'orto dal giardinetto dietro la casa. Gem lo toccò. Il cancello cigolò. Non fate rumore. Sputateci. Gem, sputate ancora. Il retro della casa dei Redley era ancor meno invitante della parte antistante. Un portico sgangherato correva per tutta la larghezza della casa. C'erano due usci e due finestre buie. Andiamo. Sgusciammo verso il fianco della casa e girammo fino alla finestra con la persiana ciondolante. Quando Gem salì sul primo gradino del portico, il gradino scricchiolò. Gem saltò due scalini, mise il piede sul portico, si tirò su e per un bel po' stette lì, incerto. Accucciato strisciò fino a una finestra, alzò la testa e vi guardò dentro. Allora vidi l'ombra. Era l'ombra di un uomo col cappello in testa. Il portico posteriore adesso era inondato dalla luce della luna e l'ombra, nera come la pece, vi mosse attraverso in direzione di Jem. Subito dopo la vide Dil. Si coprì il viso con le mani. Quando l'ombra coprì Jem, Jem la vide pure lui. Si riparò la testa con le braccia e si irrigidì. L'ombra si arrestò a mezzo metro da Jem, poi girò sui tacchi e tornò indietro lungo il portico da dove era venuta. Jem saltò giù dal portico e si precipitò verso di noi. Muoviti! Muoviti! Presto, presto! Spalancò il cancello, ci trascinò dietro di lui, me e Dil, e ci spinse fra le due file di verze fruscianti. Sani e salvi dietro l'albero, Dil e io cedemmo allo sgomento. Io me ne vado. Vengo, zio Stefani! Ciao. Vengo, zia! Attraversammo di corsa il cortile della scuola, strisciammo sotto la rete verso il pascolo accanto a casa nostra, scavalcammo lo steccato sul retro della casa e ci arrestammo vicino ai gradini. Jem, Scout, venite in casa. Come ci fu tornato il respiro normale, ci avviammo con l'aria più indifferente possibile verso l'ingresso principale. Per una settimana Jem fu pensieroso e taciturno, sicché lo lasciai in pace e cercai di non disturbarlo. Poi cominciò la scuola. Clear creeks and cool mountain mornings, honest work out in the field, cornbread in my mama's kitchen, daddy's saying grace before the meal, family ties run deep in this land. And I'm never very far from what I am. I was born country, and that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got 100 years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I love. Nel sud dell'Alabama non ci sono stagioni ben definite. L'estate sfuma nell'autunno e talvolta all'autunno non segue mai l'inverno. Quell'autunno fu lungo, con appena quel po' di freddo che giustificava un soprabito leggero. Jem e io stavamo facendo la solita spola in un tiepido pomeriggio d'ottobre, quando il cavo dell'albero ci fece fermare di nuovo. Dentro c'era qualcosa di bianco. Ne tirai fuori due figurine modellate col sapone. Erano le miniature quasi perfette di due bambini, un maschio e una femmina. Il ragazzo portava i calzoni corti e un ciuffo di capelli di sapone gli ricadeva sugli occhi. La bambolina aveva la frangetta. Quella sera in camera, Jem mi fece vedere una scatola. Ho trovato tutto nel buco di quell'albero, un po' alla volta. Questa è una medaglia. Sai, di quelle che davano a scuola ai ragazzi più bravi, prima che nascessimo noi. Email audiogrammi @radio24.it. Poco tempo dopo, per ragioni imperscrutabili anche ai più attendibili profeti della contea di Macomb, l'autunno precipitò nell'inverno. Avemmo le due settimane più fredde dal 1885 a quella parte. Quel giorno ero arrabbiatissima perché il giorno prima avevano annunciato nel cortile della scuola che il papà di Scout Finch difendeva i cioccolati. Io l'avevo negato, ma quella sera mi informai. Atticus, è vero che difendi i musineri? Non dire musineri. Non l'ho detto io, lo ha detto Cecil Jacobs. Ed è per questo che l'ho pestato. Scout, non voglio che tu pesti nessuno. Ho dovuto, Atticus. Lui diceva non che... Non mi importa quale fosse la ragione. Ti proibisco di picchiarti. Vabbè. Comunque, io sto difendendo un negro, Tom Robinson. Scout, ci sono cose che tu sai che tu sei ancora troppo piccola per capire. Hanno fatto delle chiacchiere in città perché dicono che io non avrei dovuto accettare di difendere quest'uomo. Se non devi difenderlo, allora perché lo fai? Per un mucchio di ragioni. La prima è che se non lo facessi, non potrei più andare a fronte alta. Non potrei più dire a te e a Jem di fare o di non fare qualcosa. Sentirai parlare molto male di questa storia a scuola. Ma voglio che tu mi prometta una cosa. Che non ti accapiglierai più con nessuno. Qualunque cosa ti dicano, capito? Sì, signore. Mi rannicchiai sulle sue ginocchia e gli infilai la testa sotto il mento. E lui mi strinse fra le braccia e mi cullò dolcemente. Venne l'estate e Dill tornò di nuovo. Per me l'estate era Dill. Con lui la vita era normale, senza di lui insopportabile. Atticus ci lasciò per qualche tempo perché il Parlamento dello Stato era stato convocato per una riunione straordinaria. C'erano ora a Birmingham degli scioperi bianchi. Nelle città le code per la distribuzione della minestra ai poveri si allungavano sempre di più. Ma questi erano avvenimenti remoti dal mondo mio e di Jem. Il giorno seguente era domenica. Nell'intervallo fra la dottrina e la funzione, vidi sul sagrato Atticus con un gruppo di uomini. Fra questi c'era il signor Ektet e mi domandai se Dio fosse sceso a illuminarlo. Ektet non andava mai in chiesa. C'era persino il signor Braxton Underwood. Il signor Underwood non si occupava d'altro che della Gazzetta di Maycomb, del quale era proprietario, direttore e stampatore. Se si scomodava il signor Underwood, era segno che qualcosa bolliva in pentola. Pescai Atticus che entrava dal portone e disse che avevano trasferito Tom Robinson dal penitenziario di Stato al carcere di Maycomb. Disse inoltre che se l'avessero tenuto lì fin dal principio, non ci sarebbe stata nessuna questione. Quella sera dopo cena Atticus uscì dalla porta di servizio e Jem mi disse di seguirlo. Che succede? Shh, dormi tu. Ma che succede? Shh. Andammo alla finestra di Dill e Jem fece il verso della quaglia. La faccia di Dill apparve alla rete e scomparve. 5 minuti dopo, Dill sganciava la rete e sgusciava fuori. Svoltammo l'angolo dell'ufficio postale. Il lato meridionale della piazza era deserto. Ehi, ecco la macchina! Lo studio di Atticus si trovava nel palazzo della Maycomb Bank. Vedemmo la macchina di nostro padre parcheggiata lì davanti. Guardate, eccolo là! La porta dello studio era buia e chiusa a chiave. Il carcere di Maycomb era il più vetusto e repellente edificio della contea. Era un grottesco tempio gotico in miniatura, largo un'unica cella e alto 2, completo di minuscole torrette e massicce sbarre di ferro alle finestre tipo cattedrale. Mentre percorrevamo il marciapiede, vedemmo accesa una luce solitaria. Alla luce della nuda lampadina, Atticus sedeva, puntellato contro la porta. Stava su una sedia del suo studio e leggeva, incurante dei moscerini notturni che gli danzavano sul capo. No, Scout, non ti far vedere. Potrebbe arrabbiarsi. Volevo soltanto scoprire dov'era e che cosa doveva fare. È tutto a posto. Torniamo a casa. Andiamo. Stavamo tagliando giù per la piazza quando 4 automobili impolverate arrivarono dalla strada di Meridian, avanzando lentamente in fila indiana e si fermarono davanti al carcere. Vedemmo Atticus alzare gli occhi dal giornale. Schizzammo di nuovo indietro attraversando la piazza, abbastanza vicino ma nello stesso tempo a distanza precauzionale. Da soli o in coppia, gli uomini scesero dalle macchine e si diressero alla porta del carcere. È lì dentro Tom Robinson? Sì. Sta dormendo. Non lo svegliate. Lei sa cosa vogliamo. Ci levi da quella porta, signor Finch. Walter, io direi che è meglio che torni subito a casa. Lo sceriffo deve essere da queste parti. No, non c'è. è andato con i suoi uomini dalle parti dell'Old Serum a cercare di noi. Noi lo sapevamo e siamo passati da un'altra strada. Lei non ci aveva nemmeno pensato, vero, signor Finch? Ci avevo pensato. Non vedo Atticus. Gli uomini facevano capannella intorno ad Atticus e sarebbe stato un peccato non godersi la scena. Mi svincolai da Jem e corsi a gambe levate verso Atticus. Mi feci largo tra quei corpi e irruppi nel cerchio di luce. Atticus! Ciao, Atticus. Jem, torna a casa e porta Scout e Dilla a casa con te. Figliolo, ho detto va a casa. No, signore. Ce lo mando io a casa. Non lo toccare, lascialo, lascialo! Basta così, Scout. Se qualcuno fa del male a Jem, gli spacco la testa. Li faccio andare via, signor Finch. Jem, per favore, va a casa. No, signore. Jem. Ho detto che non ci vado. Sentivo tutto intorno un tanfo di whisky e di porcile e quando mi diedi un'occhiata intorno, scoprì che quegli uomini non erano gente di Maycomb. Mi prese un cocente imbarazzo, ma ero intrufolata in un cerchio di sconosciuti. Guardai il gruppo. Gli uomini erano per la maggior parte in tuta e in camicia di cotone pesante. Cercai un viso noto e improvvisamente ne trovai uno. Salve, signor Cunningham. L'uomo non mi udì, a quanto parve. Ho detto salve, signor Cunningham. Come vanno i pagamenti? Non si ricorda di me, signor Cunningham? Io sono Jean Louise Finch. Una mattina lei ci ha portato un sacco di noccioline. Se lo ricorda? E ci siamo parlati. E io andai a chiamare mio padre, che venne fuori e lo ringraziò. Sa una cosa, signor Cunningham? I debiti sono brutte cose, i debiti. Il signor Walter Cunningham batté le palpebre e si ficcò i pollici nelle bretelle della tuta. Pareva a disagio, si schiarì la gola e guardò da un'altra parte. Piano piano mi accorsi che tutti quegli uomini mi stavano guardando. Alcuni, compreso Atticus, avevano la bocca semiaperta. Sentii il sudore affiorarmi all'attaccatura dei capelli. Atticus non apriva bocca. Mi guardai intorno e scrutai il signor Cunningham, che aveva un viso altrettanto impassibile. Andiamo via di qui. Andiamo, ragazzi. Da soli o in coppia, gli uomini tornarono alle loro auto sgangherate. Gli sportelli sbatterono, i motori tossirono e quelli se ne andarono. Ora andate a casa. Tutti e tre. Io verrò più tardi. Va bene. Andiamo. Mi girai verso Atticus, ma Atticus stava appoggiato contro la prigione con la faccia contro il muro. Tirò fuori il fazzoletto, si strofinò energicamente la faccia e si soffiò con forza il naso. Una voce roca giunse sommessa dall'oscurità sovrastante. Signor Finch, se ne sono andati. Sì, Tom. Non ti daranno più fastidio. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. Got a pocket full of money. Little doll, don't try to help me, no. Il giorno dopo era quello del processo e un flusso di gente percorreva la via. Mentre la contea ci sfilava davanti, Jem illuminò Dill sui personaggi più importanti. Il signor Jones votava per un rigoroso proibizionismo. La signorina Emily Davis fiutava tabacco. Al signor Jake Slade stavano spuntando i denti per la terza volta. Buongiorno, signor Strike. Come sta? Ehi, hai mai visto tanta gente? Sembra domenica. Dove vai? Non ce la faccio più a stare qui. Vado al tribunale a vedere il processo. Lascia perdere, lo sai che Atticus non vuole. E chi se ne importa? Chissà quando ricapita una cosa così importante in questa città. Fine primo tempo. Il secondo tempo de Il buio oltre la siepe, domenica prossima, alle 20:10.